cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, vuoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato. Io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Tu corri dietro il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura di andar lontano, puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire, come se andare lontano fossi uguale a morire. E non c'è niente di strano, ma non posso venire. Così come una farfalla ti si è alzata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta anch'io dare, se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a gelare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle. Io lì sotto ero uno sputo e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me, l'ho già detto, che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto lontano. Si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte anima mia. Adesso spengo la luce e così sia. Darti tese, occhi, noci, mamma, ti guidi per dove? Tu lo distogli. Love you.